orb, tu non vai da nessuna parte. No, vado dove voglio, in qualsiasi istante. Orb, tu non sei un bravo cantante. No, io sono un rapper e di rime ce ne ho tante. Orb, tu non sei un vero credente. No, ho perso donne e amici, non credo più a niente. Orb, tu sei un vero fetente. No, me guardo solo bene dalla gente. Orb, tu non hai nessuno che te sente. No, 2000 ascolti, non è che non so niente. Orb, tu non hai molti veri amici. No, so pochi e veri, e così siamo felici. Come nella testa popo, tali e quali, un vasto menù dei conflitti mentali. E qui non c'è rimedio, non ci sono medicinali. Come se non c'è l'ascensore, pile scale e sali. Non è un divertimento, è un comportamento. Vado avanti se c'è merda, ne risento. Non mi arrendo e lotto con più ardore per far quadrare le cose e migliora l'umore. E se tra la merda bisogna navigare, anche nella merda io ci saprò fare. Ed ogni volta che troverò un motivo, avrò la risposta del perché io sono vivo. E se un motivo non riuscirò a trovare, risolvo che il motivo è quello di cercare. Le cose sono le stesse e sono tutte uguali, e tutti noi abbiamo dei conflitti mentali.